Well, look down, baby, ooh, we look down, baby, mercy me, down, baby, ooh, we way over there by the apple tree. Look down, she got big and fat. Look down, my head like that. Look down, baby, ooh, we way over there by the apple tree. I love that little apple, that apple always by. I was crazy about that mad little apple. Every night and day to roll across my mind. Look down, baby, ooh-wee. Down, baby, mercy me. Down, baby, ooh-wee. Way over there, buddy. Curly hair, look down, people don't like me there. Down, baby, ooh-wee, way over there by the apple tree. Look down, mm-hmm, I wonder where she's at. Look down, I wonder when she comes back. Look down, baby, ooh-wee, way over there by the apple tree. I love that apple, and that apple always fine. I'm so mad about that mad little apple. Every night and day to roll across my mind. Down, baby, ooh-wee. Down, baby, mercy me. Down, baby, ooh-wee. Way over there, buddy. Eccoci qua, bentornati in studio. Erano Mauro Ferrarese e Mighty Max De Bernardi in questo bel brano tratto da The Red Wine Tapes. Io già mi immagino il titolo a cosa è dovuto. Guarda caso. Sono i nastri del vino rosso. Sì, è stato un. Esistono sul mercato dei nastri David Grisman e Jerry Garcia che si chiamavano The Pizza Tapes. Da qui è venuto fuori Red Wine Tapes, perché entrando in studio quel giorno lì per registrare il disco alle 11 di mattina avevamo prodotto poco. Molto dopo poco. Pranzo e dopo una bottiglia di Gutturnio buono abbiamo prodotto 50 pezzi, di cui un 20 erotti sono andati sul disco. E soprattutto tutti buona la prima. Buona la prima, live nello studio e... quindi con i relativi errori, senza vergogna. È giusto. E chi se ne frega. Senti, è arrivato un attimo fa, è entrato dalla porta principale questo si è materializzato una cosa incredibile, è successo oggi. Vi ricordate, cari ascoltatori e ascoltatrici, un quanto tempo fa, una decina d'anni fa, forse di più, io ho ospitato nell'altro studio, nello studio 2 di Rock FM, un giovane armonicista, si chiamava Little Lawrence, così scimmiottando Little Walter. Beh, questo Little Lawrence praticamente si è materializzato, adesso è un fior di ragazzotto. Eccomi qua. Quanti anni hai adesso? 20. 20 anni. Quasi 21, 20 anni. Dai. Allora, lui in 10 anni cosa ha fatto? Ovviamente ha mollato di suonare con suo padre, perché doveva affrancarsi dalla presenza di Papi. Sì, ad un certo punto. E ha messo su un gruppo. Un gruppettino country acustico, molto, molto bello, molto originale. E suonerai. Suonerò sabato 17. E suonerai anche prima tu? Prima di Max e sabato Mauro. 17 suonerai. Esattamente. Prima di Mighty Max e Bernardi e della Travis Blues Band. Allora, esatto. Aspetta qua un momento, perché oggi succede di tutto. Mi dicono dalla regia che c'è un amico al telefono. Prontolo? Chi è? Pronto? Ah, eccoci qua. Sì. Vabbè, allora, come si chiama questo gruppo country? Si chiama Johnny Selfish and the Broken Hearted Man Band. È bello, poi si ricorda facilmente. Non sì, esatto, non è, che aveva, non è che avete qualcosa di più semplice. Tipo... Ma guarda, ci abbiamo provato, però. Okay. Pronto? Pronto, sì. Eccolo qua, carissimo, sei in onda. Ok, grazie. Allora, io volevo presentare il Castelfranco Emilia Blues Festival. E vai. Che si terrà questo mese di maggio, nel giorno di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25. Gli artisti che parteciperanno sono al venerdì alle ore 20, intanto presso il pub Old Distillery in piazza Aldo Moro, ci sarà Armonica Bert, che parlerà dell'armonica, lo strumento a nostro avviso forse più caratteristico per quello che riguarda lo strumento il principe. Sì. È lo strumento principe. E poi alle 21, lì a pochi passi dal pub, nella centrale piazza Garibaldi, ci saranno il gruppo dell'armonicista bolognese Gianandrea Pasquinelli, e il gruppo si chiama Flying Hippo. E seguirà la band di Jimmy Joes, che proviene da Trieste, presenterà il suo nuovo disco Live Jam Blues Point con la partecipazione dell'armonicista Gianni Massarutto. Questo per quello che riguardava il venerdì. Poi c'è sabato 24, domenica 25. Sì. Però dal momento che mancano ancora diversi giorni, meglio non sprecare. Annunciamo per adesso che si terranno il 23, il 24 e il 25 maggio a Castelfranco Emilia. Io lunedì prossimo annuncerò sabato 24 maggio che ci sarà anche Rudy Rotta, e domenica 25 che ci saranno quattro gruppi d'eccezione. Perché sennò la gente se li dimentica, ti capì? Sì, ho capito. Comunque la cosa importante è che se qualcuno volesse saperne di più deve andare sul sito www.castelfrancoblues.it. Certo, e un'altra cosa importante è che è ingresso gratuito. Esatto, e l'altra cosa importante è che si mangia molto bene. Certo, ci sarà il solito stand tutti gli anni con i prodotti più o meno tipici, gnocco, tigelli o crescente, come si vuole chiamare, saluti, abbiamo fame, basta che abbiamo fame. E poi l'altra cosa che dobbiamo dire è che il prossimo anno, te lo dico già subito io, l'anticipo io, che ci saranno anche l'amico Lorenzo Trentin e Mighty Max De Bernardi, che sono qua in studio, e quindi mi dispiace, ma ormai sì, sono aggiudicati, sono già prenotati, dillo anche all'amico Guido Poppi, ti ringrazio. Certo. Della telefonata, niente, grazie a te, presto. Magari mandami una mail con i nomi, senz'altro, così ti ricordiamo. Senz'altro, blues alle masse, viva Castelfranco, ciao. Evviva. ciao. Trip on a mighty top. Shorty southern women thought a eagle rock. You got the woman up to me. You got the woman up to me. Hop around the hot. Mama got to get him cold. Teddy like the banner, told the kin up south. Get another man, I got another gal. You got the woman up to me. Got the woman up to me. Hop around the hot. Mama got to get him cold. Now if you you don't believe I can warm you right, take me to your house and let me stay all night. You got the woman up to me. You got the woman up to me. Hop around the hot. Mama gotta get in the cold. When you see my mama standing in the door, Papa wound up, then mama won't go. You got the woman up to me now. You got the woman up to me. Papa run hot. Mama gotta get in the cold. Oh, play that thing now, boy. I know it's good to you. Don't be no rat and don't be no lame. Don't let these women leave your heart in pain. You got the woman up to me. You got the woman up to me now. Papa run hot. Mama gotta get him cold. Now look here, boy. Don't get rough. These here women that really know the stuff. You got the woman up to me. You got the woman up to me now. Papa run hot. Mama gotta get him cold. When you're strutting a Cadillac, so in a fold, you do the strutting on the running board. You got the woman up to me. You got the woman up to me now. I'll run out. Mama got to get him cold. Don't be no rat and don't be no fool. Don't let these here women break your rule. You got the woman up to me. Yeah. You got the woman up to me. Papa run out. Mama got to get him cold. Play it, boy. I know it's good to you because it done got good to me. Now look here, boy, if you're going to be my friend, let's go drink moonshine again. You got the woman up to me. You got the woman up to me now. Papa run hot. Mama got to get him cold. Now take it easy, late at night. What easy if women ain't going to treat you right. You got the woman up to me. You got the woman up to me now. Una puntata di Life in Blues interamente o quasi dedicata al buon vecchio blues acustico, il blues dell'origine. Questo era Blind Willie McTell, yeah. come Warm It Up to Me, era giusto, sì. giusto. Scaldamelo. E poi un saluto a Mauro, un saluto a Big Armonica Paul. E approfittando della presenza dell'ex giovane Little Lawrence, che adesso è un fustaccione, hai portato l'armonica? Certo, e io non posso suonarla perché per dei motivi, no, non sono contrattuali, è che ho un problemino qui, un dente, il dente del giudizio. Cioè, 60 anni, cioè, arrivano anche i denti del giudizio. Ricordo che in studio abbiamo Mighty Max De Bernardi, che è venuto a presentare il suo CD realizzato con Mauro Ferrarese, Red Wine Tapes, e poi l'amico Lorenzo Trentin, che sarà di scena assieme al suo gruppo sabato 17 alla Fiera di Osnago. Io vi consiglio, perché pigliate tre e pagate uno, e quindi vi lascio il microfono per questo brano, anche questo penso tradizionale. Allora, è un brano di Sonny Boy Williams che noi abbiamo stravolto in versione ukulele armonica. No, dai, troppo! When you're talking about your woman, I wish you God, man, that you could smile. Talking about your woman, I wish you God, man, that you could see mine. And every time that little girl starts loving me, she bring eyesight to the blind. Yes, I declare she's pretty, and the old one knows she fine. No, I declare she's pretty, and the whole world knows she fine. Every time that little girl start loving, she brings eyesight to the blind. Blow your horn. and she was laid down across the bed. A man in the next room, a dime stop, dime, lift up his head. Ain't that she pretty? And I always know she fine. Every time that little girl start loving, she bring eyesight to the blind. Ti dico applausi. Senti gli applausi, io ti dico solo questo. Ok, Lawrence, l'ex Little Lawrence, l'ex Lorenzo Trentin e Mighty Max De Bernardi in questo bellissimo tributo a Sonny Boy Williams. Io non so se perché oggi abbiamo preso la strada del blues acustico, delle radici, delle roots, però sono arrivate davvero tantissime dimostrazioni di affetto, sms, mail, telefonate. Cosa vi devo dire? Lancy. Purtroppo questa stazione radio chiude, però si prosegue con qualcosa che abbiamo lasciato. Abbiamo lasciato un'eredità, giusto? Certo. Un heritage, che non è la chitarra, ma è proprio un'eredità. E la cosa fa piacere. Tu cosa ti ricordi, per esempio, Lorenzo? Beh, io... tutto. Sei nato con Rock FM? Sono nato con Rock FM. Cresciuto con Rock FM? Mi ricordo quando sono venuto qua piccolino con papà e l'emozione, tutto quanto. Qualcuno mi ha detto che c'hai ancora una foto del Puma vicino al comodino e sì, che sì. Vai in giro a dire il Puma mi protegge. Sono belle cose, Lorenzo, grazie. E cosa devo dire? Grazie anche a Mighty Max De Bernardi, però non facciamoci prendere dallo scoramento, sentiamoci un bel blusaccio. Sei già, eccolo qua, ma che roba! Mamma mia, lo che è? C'è qui la chitarra lancinante, è una talking guitar, una chitarra che parla, è quella di Roy Buchanan. We first met, baby. Said it was me and you. But I found out later there was others too. I didn't quit you, baby. I hung on like a vine. When you said your love for me was all in my mind, that did it, baby. Work 6 days a week in the rich folks' yard. Anybody can tell you that kind of work is real hard. You know I didn't mind taking care of you, but I saw your other man wearing my brand new shoe. Oh, Lord, I did it, baby. Baby. get married in the early spring. I passed the pawn shop today. I peeped in and saw my ring. You said you needed the money to pay your house rent. But I saw you sitting at that damn bar, spinning my last friend sin. I want that duty, baby. Well, I know you think you're slick, but you played your last trick. Oh, that did it, baby. I said that did it, baby. Su queste note di Roy Buchanan io voglio segnalare tre sms particolarmente belli. Il primo dice: grande Puma, perché Gigi D'Alessio è famoso mentre chi sa fare musica veramente un po' meno? Diego da Bagnacavallo. E poi un'altra che vabbè, è dedicata anche un po' a Max, dice: ciao Puma, vorrà dire che vi batteremo in UEFA, forza Samp, ciao De Rio, forza Roma. Quest'ultima la dedicata a te. E poi un'altra, proprio bella, bella, bella, bella, bella, che dice: grande Fabione, sono un rocker che ha imparato ad apprezzare il blues grazie alla tua trasmissione Blues Express. Non si fermerà mai. Saluto dal Gheppo. Grazie, grazie, grazie. Sono il 17:56. E la Peppa, magari un po' d'olio glielo do la prossima settimana a questa sedia. È che la sfondo. Ogni volta che mi siedo io fa questi rumori. Ci sentiamo un altro brano di Mighty Max De Bernardi e Mauro Ferrarese, l'ultimo album. Nel frattempo ringrazio Tiziano. Sì, Tiziano. Ciao. Ciao Lorenzo Trentin. Io continuo ad essere Little Harp. Allora Little Harp Trentin, che vi dà appuntamento come sottoscritto anche Max sabato 17 a Osnago, alla fiera di Osnago. E poi cosa devo dirti? Mi ha fatto piacere averti qua con il tuo ukulele. Ha un grazie nome l'ukulele. Per avermi invitato. Tutti i musicisti danno dei nomi ai propri strumenti. Lui come si chiama? E io invece me ne frego. Niente. No, non chiamalo, l'ho dato. Gino, chiamalo Gino. Se lo chiami Gino. Me li dimentico poi perché ne ho 20 di ukulele. Allora Gino, Mino, Pino, Dino. Gino. Vi saluto, grazie di tutta questa bella musica. Fabio, Sergio da Genova, forza Magico Genova, forza Grifone. Leggo anche questi messaggi di natura calcistica, perché come sapete io sono tifoso di calcio, fino a ieri ero tifoso di calcio, no scherzo, dai. Grazie a Max De Rio, sempre prezioso nel suo lavoro pesante al telefono, agli sms. Noi ci sentiamo lunedì prossimo per Blues Express, perché cosa salva dallo stress il buon vecchio Blues Express. E da ciao a tutti da Max De Bernardi. Ciao a tutti da Little Lawrence. Allora, ciao a tutti dal Puma di Rambratti, vi voglio bene. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Yeah. Stepping out to try. don't you hear me shout too tight, this break of mine. Too tight, this friend of mine.